Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non è che sempre io prenda i treni che attraversano l'Italia, dal sud al nord, dal nord al sud, quelli belli, veloci, quelli che corrono. Ogni tanto, soprattutto quando c'è una bella stagione, mi piace prendere i piccoli treni, quelli locali, quelli che magari da Roma, dove abito, vanno verso il mare. E proprio prendendo il trenino che va verso Fregene, quello che per il fine settimana prendono tanti romani per andare nel loro mare, dove si va soprattutto per incontrare altre persone, per festeggiare sulla spiaggia, per passeggiare, per bere, per mangiare, beh, in questo trenino incontro un vero figlio di quel posto. E da cosa me ne accorgo? Dal fatto che è vestito da spiaggia anche sul treno, ma non da bagnante, da qualcosa di più. Agli strumenti, la divisa di colui che si occupa di chi va al mare, se ne occupa pensando alla loro salute, pensando al loro benessere. Insomma, capisco da quello che mi dice e da quello che indossa che è il titolare di uno stabilimento molto noto e che da sempre lui ha fatto questo lavoro, e anzi questo lavoro è parte fondamentale della sua vita. Da bambino già sapevi che avresti fatto questo lavoro? Era proprio di famiglia? Io da bambino ero felicissimo, cioè io stavo nel mare, io praticavo, andavo, il mio giocattolo era il pattino, io andavo su e giù a 3 anni e già guidavo il pattino, su e giù c'avevo quello. A 3 anni? A 3 anni, cioè, io ero bello grosso. E già facevi i salvataggi, già facevi il bagnino, no? No, uscivo col pattino, andavo a fare i giretti, però poi dopo all'età di 8-9 anni già qualche salvataggio lo facevi. Cioè invece del triciclo ti hanno dato il pattino da piccolo. Papà mi ha dato il pattino, poi calcolando che in inverno andavamo a mollare le reti, quindi io dovevo sempre remare, sta seduto lì con papà. Che... Quindi era pescatore, cioè diciamo gestiva i bagni, ma era anche pescatore? Era pescatore e muratore, capito? Certo, una volta facevano tanti mestieri insieme. Se facevano tanti perché il periodo invernale era lungo, essendo un posto diciamo di villeggiatura, c'erano tutte le case della gente di Roma che andavano sempre ristrutturate di volta in volta. Poi anche gli anni che si costruiva, penso, immagino, se gli anni si 60, 70. Anni floridi, quando praticamente papà mi raccontava che lui faceva il bagnino di terra quando era piccolo al Toni, e venivano gente come si chiama, Raff Vallone, Steve Rivers, questi che facevano quei film dei culturisti, e facevano a gara a loro e chi portava la sdraia o il lettino, perché gli davano 500 lire mancia, che all'epoca non prendevano soldi dai stabilimentari, quelli loro andavano lì come volontariato. Dice che la sera arrivavano questi e gli facevano anche il controllo dei soldi che hanno fatto dei mancia, che gli levavano anche. Cioè, erano tempi brutti, sembrava, erano gli anni del boom, eppure c'erano queste cose. Ma qua come si dice, tutti quanti sono nati col papà che gli ha insegnato 1350 lire, prima le 350 lire e poi le 1000 lire. Cioè, stabilimenti balneari sono sempre stati così. poi più vai su, adesso poi più vai verso nord, perché poi ormai il boom sta tutto al villaggio dei pescatori, che all'epoca era tutta una cozzaglia di baracche, di paglia, un casino, invece diventa tutto un posto d'elite, sai, le cose tutte rimesse a posto, dove c'è sta gente pure di un certo carico. Allora era un villaggio davvero, adesso sono casette ristrutturate. Casette, cioè noi abbiamo rifatto la casa di Sergio Valente, parrucchiere di Roma, che all'epoca stava con le Fendi, c'aveva pure il salone di bellezza sulla quinta strada di New York, dentro è tutta affrescata, cioè non so casette, so proprio... Sono ville. È ville che servivano per fare le feste all'epoca con tutta la gente, poi il mattino... Te le ricordi le feste a Fregenete negli anni belli? Mamma mia, con tutte torce nella spiaggia, tutta organizzazione. Ma chi c'era? Personaggi del cinema? Chi veniva? C'era di tutto, c'erano tutti, addirittura qua venne, vabbè, qui c'era la villa di Federico Fellini, quindi tutti quelli che venivano con Federico Fellini, poi se vai sulle spiagge qui venne anche, come si chiama, tutti Tyrone Power, quando fece Vacanze Romane venne qui a Fregene, cioè veniva Mina, venivano tutti questi cantanti di un certo calibro, un po' pure gente dello spettacolo, quelli che facevano i balletti. Questa roba qui, ma che abbiamo avuto di tutto, ma ci abbiamo avuto sempre l'elite, specialmente al nord. Tu col pelo che facevi? Già facevi questo mestiere? Io ero ragazzino e facevo il bagnino di terra, portavo sdraio, lettini, ombrelloni, fino a che poi non presi il brevetto e andai avanti. E quindi hai cominciato anche a far salvataggi, immagino? Sì, salvataggi, tutto. Quanta gente hai salvato, ti ricordi? Ah, guarda, io devo essere sincero, io mi ricordo quelli non sono riuscito a salvare, 3 persone. Per adesso ne ho fatti talmente tanti che se dimentichi tutto, però 3 persone che non sono riuscito a salvare, quelle me le ricordo. Ma perché? Cos'era successo? Cos'è stato di diverso rispetto alla procedura che mettevi in atto normalmente? Il discorso, una volta mi sono dovuto trovare tra una decisione. C'avevo 2 bambine e una persona anziana, una a destra e una a sinistra. Io ho preferito prendere le bambine. Hai salvato le bambine? Poi sono andato dal vecchio, quello però porello, che ha preso un infarto, un aneurisma ed è morto. D'altronde in quei momenti proprio il protocollo è questo, tu devi scegliere la persona che pensi che se non puoi salvare tutti. Io devo cercare sempre. E le bambine le hai salvate? Sì, certo, ovviamente. Portate a terra. Anche semplicemente il rapporto era 2-1, ne salvate 2, che vuoi fare? Sì, però poi dopo la notte le cose poi te le sogni, te le ricordi. Cioè sognavi questo signore anziano che non ce la fa? Sì, sognavo proprio i morti. Vabbè, ma che dovevi fare? Di una volta. E che dovevi fare? Una volta mi è successo con una persona, mi è sparita in acqua, ma sempre per malori. Sì, che poi l'acqua molto... diciamo non è, è un mare, si vede il mare a Fregene, non è che ci sono posti, è abbastanza vista. Ma dipende anche chi entra in acqua, quando poi arrivarono gli stranieri, i rumeni, con quello diventò proprio un problema. Perché? Perché non sapevano nuotare, andavano giù come sassi, cioè proprio sassi, non galleggiavano. Perché non erano abituati a nuotare? No, perché venivano dalle campagne, che ne ero io, dove venivano, si buttavano in mare, poi qui in mare... Siccome che si formano delle fosse, delle sì, diventa subito fondo in effetti. Dopo. Sì, quelli cascavano giù sotto anche con l'acqua piatta e quindi succedeva tutto il cataclismo. E ne hai salvati di rumeni te? Diciamo sta. Poi quelli erano grossi, non era facile tirarli su, no? Ah sì, ma pure loro, pure le donne erano grosse. Ma com'è la tecnica? Scusa, tu devi tirarlo su dall'acqua, se quello s'agita così come fa? Ci vuole forza. La tecnica è semplice, io faccio salvataggi sempre con l'ausilio del pattino. Ah, ecco. Quello è qualcosa che galleggia, devi sempre andare, tu arrivi, gli dai il davanti, quello si attacca, di solito quando c'è il mare mosso lasci un attimo i remi, lo tiri sopra e poi vai, arriva, giri il pattino e io tornavo sempre col favore dell'onda, calcola che io facevo surf da quando avevo 10-11 anni, ho girato tutto il mondo, sono stato in Australia. Ma quindi sei anche uno sportivo, diciamo, del surf? Del surf, windsurf, arti marziali. Facevo karate e kendo, 3 volte campione italiano, una volta campione europeo. Ma sai, è una vita intensa dal punto di vista fisico. Sì, infatti ho giocato a rugby per la vita pure. Beh, per salvare le persone ci vuole forza, ci vuole anche sapersi un po' muovere, penso, no? Devi saper muovere, tecnici. Ma ti aggrediscono pure quando sono in acqua, che stanno per affogare. Sì, che... se tu vai senza niente, la prima cosa che fanno è si attaccano a te e tirano sotto, perché purtroppo è quando... È l'istinto. Lì, io mi ricordo un nonno col nipotino, si attaccò sto nipotino, si portò giù il nipotino, arrivai proprio per rotto della cuffia a tirarlo su, e il nonno è montato sul nipotino per salire sopra al pattino. Cioè non è che ha pensato prima al nipote e poi a lui, prima ha pensato a lui e poi dovrà prendere il nipote, ma c'erano 5-6 anni, e tirarlo su. Beh, sai, io penso che sono momenti in cui non sei più te stesso, l'istinto di sopravvivenza prevale su tutto. No, guarda, lì quando arrivi a quei momenti là, fatidico. Poi un anno mi hanno dato anche il premio come miglior assistente bagnanti dell'anno, e quell'anno andai a Costanzo, mi fece anche la... Cioè sei diventato un personaggio? Sì, ho fatto qualche film con Monicelli come acrobata. E che facevi, perché acrobata? Con le arti marziali, beh, in italiano sei acrobata. E che parte ti hanno fatto fare? Una volta abbiamo fatto Cari fottutissimi amici, e ho fatto il pugile sul ring. Praticamente c'era sta truppa americana, sta truppa, gli italiani che arrivavano scansonati, che dovevano fare un incontro con Ceccherini, c'era, e non mi ricordo con l'altro. C'era quello che faceva Fantozzi, che non mi viene. Ah, Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, sì. E tu hai fatto la controfigura di Villaggio, no? No, io ho fatto, no, la controfigura ho fatto un'altra, io ho fatto proprio interpretato sto pugile su ring che combatteva. You have a collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ma quindi hai fatto anche pugilato, oltre ad arti marziali? No, io ho fatto arti marziali, però l'impostazione poi alla fine... Quello sai fare. Eh sì, vabbè, c'era il maestro d'armi, che era praticamente un parente mio, Leno Zamperla, che mi ha insegnato un pochino come si danno i pugni sul ring cinematografico, perché tanto è tutta una finzione. Cioè non devi dare il pugno senza colpire, naturalmente. Devi dare il pugno, devi far vedere la potenza del pugno, però devi cercare di lisciare la persona, e poi deve essere bravo quell'altro che quando arriva questo pugno si butta giù, o cade o fa l'eclatante, no? Beh, certo, se ti parte un pugno per sbaglio gli fai male, quello è il problema. Se parte il pugno per sbaglio, Monicelli era particolare, lui voleva proprio i pugni, parliamoci chiaro. Cioè voleva che tu menavi davvero? Sì, sì, lui voleva proprio il realismo. Vabbè, ma chi li piglia come fa? Scusa, quello che incassa poi... Lo so, ma era particolare come persona, Monicelli. Cioè diceva date i pugni affondate. Sì, poi montava sopra e non so, prendeva a schiaffi il coso, mi dice, d'attore, perché non faceva quello che diceva lui, si incavolava perché era vecchia guardia, venite qui, venite a rubarci il lavoro e non volete fare quello che diciamo noi, qua dovete fare, dovete essere come quelli di una volta, che io penso che una volta erano molto più spartani, perché gli acrobati erano tutta gente del circo, c'erano quelli. C'è gente tutta preparata che proprio ovviamente alla buona. E quindi diciamo, voleva che tu eri realistico nel darle e anche sì, nel prenderle. Beh, il realismo è sempre fondamentale, no? Ma ti è mai successo un incidente? Ti è partito un cazzotto sul set? Un cazzotto, è saltata la notturazione a quello che stava con me. Ah, cioè, gli hai buttato giù un dente? No, l'ho preso del lato sulla mascella, quello è successo. D'altronde era un pugno vero, non era un pugno finto. Beh, con i guantoni, dai. Però gli è saltato il dente. È una otturazione. Vabbè, otturazione, si è scollata, non era una cosa grave. Infatti ho detto una cosa grave, però sai, gli attori sono particolari, sono volubili. E adesso hai smesso col cinema, non ti chiamano più? Ma ho smesso, no, non mi piaceva l'ambiente. Ma perché, cos'è che non ti andava? Perché era tutto un compromesso. Lo so, Se vuoi lavorare è un compromesso. E io a comprare, erano molto molto buoni i soldi che si prendevano, e all'epoca prendevo, che c'avevo 20 anni, 22, 500.000 lire al giorno. Ammazza, erano tante. I serali era il 75% dallo scattare delle 11:30 in poi, quindi c'avevi i 500 più 75% dei 500 in più, capito? Quindi. Ma sei fatto dei bei soldi quel periodo, allora, cioè, sì, stavi, certo, bene. Sì. Infatti partivo, io come finiva la stagione prendevo i soldi e me ne andavo a fare un viaggio. Cioè te li bruciavi subito? Sì, io andavo in giro a far surf, windsurf, ho girato quasi tutto il mondo, sono stato in Australia, sono stato a Bali, sono stato alle Samoa, a Nuova Zelanda, alle Hawaii. Cioè, e chi hai conosciuto in questi viaggi? Ah, un sacco di gente. Il viaggio più bello che ho fatto, un viaggio con la macchina, che siamo partiti da Roma e siamo arrivati fino a Dakar. Quindi abbiamo fatto la Roma Dakar, hai fatto praticamente. Sì. Francia, Spagna, Marocco, Mauritania, Senegal, Gambia. Ma che macchina c'avevate? C'avevamo un Opel Kadett Station Wagon. Vabbè. Nel deserto ci saremmo affondati 4-5 ore. Beh, non era proprio una macchina per andare nel deserto. Ma noi non sapevamo che dovevamo fare dopo infine a che siamo stati in Marocco, c'era sempre la strada. Dopo il Marocco, come è cambiato il colore della gente, è cambiato tutto, cioè è cambiato proprio la strada. Ma la Parigi Dakar non ho mai visto documentari, foto, è tutta fatta. Siamo così. Arrivati alla Parigi Dakar, infatti quando noi siamo arrivati al Dakar, due giorni dopo è venuta la Parigi Dakar e quell'anno non potevano passare per l'Algeria perché c'era un problema, quindi passarono per la Mauritania e fecero un giro per Sahara da un'altra parte. E tu ce l'hai fatta col tuo cabinato Opel Kadett? Col mio cabinato, perché quando tu passavi Dakhla, l'ultima città di confine marocchina, si passava con un convoglio, c'erano due convogli a settimana, di tutta gente che passava al confine. Ma ti accodavi al convoglio? Dovevi andare al convoglio perché c'erano i campi minati. E gli altri chi erano, gli altri del convoglio? Francesi, ho conosciuto i peciottari, coloro che portavano dalla Francia le peciò che poi attraversavano il deserto, le vendevano nel Mali. Ah, i peciottari schiano perché portavano le peciò? I peciottari, sì. Ah. E mi raccontavano come bisognava fare per praticamente mettere la macchina in modo che avesse passato il deserto, quindi con i pneumatici a 0,5 nel deserto sui... Ah, proprio le portavano guidandole le Peugeot per andarle sì, certo. Poi c'era un mercato di Peugeot dall'altra parte. C'era, sì, sì, vabbè, Mali e coso, che come si dice, Seneca, quei posti là, Peugeot, Land Rover, quelle vecchie. E ma con che tornavano indietro? Una volta fatto il viaggio? Con l'aereo. Ah, con l'aereo. Con l'aereo, oppure a volte prendevano un passaggio con la nave, perché facevano i container a Dakar per quelli che avevano fatto la Parigi Dakar e quindi ritornavano indietro con la nave e arrivavano in Portogallo, in Spagna addirittura. La macchina che vendevano doveva attraversare tutto il deserto, quindi arrivava che era disastrato. Il deserto, poi quando arrivava la davano via, praticamente si facevano una vacanza, diciamo pagata, che alla fine prendevano anche dei soldi e con quei soldi là riuscivano a tornare indietro, c'era gente che lo faceva proprio per professione. E là il mercato era sicuro, la vendevi di sicuro la sì, macchina? Sì, sì, la vendevi subito, come arrivavi alla prima città di confine, se non era la prima era la seconda, arrivavano tutti questa gente con i soldi in mano e si compravano la macchina. Ah, era tutto cash, figurati, non c'era problema. Tutto cash, beh, tanto dei documenti non gliene importava nulla. No, i documenti, anzi, addirittura c'era l'impiccio che facevano, che potevi portare via le targhe, così facevi la denuncia e te l'avano rubata e prendevano anche i soldi. Ah, quindi doppio profitto. Sì, sì. Tanto non gli, la targa non serviva, chi la comprava non gli serviva la targa, ci faceva niente. No, niente, se gli faceva una targa lui. Io ho conosciuto un funzionario della dogana marocchina, adatta, c'aveva 5 macchine, tutte e 5 con la stessa targa marocchina, senza problemi. E faceva lui le targhe. Ma che anni erano questi? Questi erano gli anni 90. Vabbè, non è manco tantissimo tempo. Vabbè, sono sempre, no, sempre 30 anni fa alla fine. Gli anni volano, certo. Sono 30 anni sì, fa. Poi anche lì il mercato mi disse che ormai stava morendo. Conobbi due o tre di queste persone che portavano sta roba. Dice, ormai il mercato sta morendo perché... Beh, ormai non ci saranno più, ormai figure con la... No, perché ormai c'erano i soldi, cioè iniziano ad averci i soldi. A parte ce ne sono, ma poi prenderanno macchine giapponesi, macchine diverse, figurati. Cioè, sì, okay, però è sempre, sono sempre di influenza francese, capito? Sì. Parla di tutto in francese. Io con 3 settimane mi sono imparato il francese. Mazza. È impossibile imparare questa lingua loro. Beh, se c'hai doti anche in questo, diciamo. Poi altre avventure in paesi lontani? Ah, quando siamo andati in Samoa, alle isole Samoa, a far surf, lì è stata tutta una comica. Perché ogni volta che andavamo al mare bisognava pagare per parcheggiare la macchina e per andare in acqua a fare surf. Cioè, c'era paradossale per te che c'è lo stabilimento a Fregene, dovevi pagare i bagnini di Samoa. Pagare per fare surf, perché ti dicono l'isola è nostra e praticamente ogni tipo di cosa che tu fai, questa strada l'abbiamo fatta noi, se vuoi passare qui ce paghi, qui se vuoi andare in acqua. Cioè ti affittavano il mare per fare il surf praticamente. Sì, sì. Guarda, roba irrisoria, parliamo che te lo so di 5 euro, 10 euro, però cioè, il surfista abituato che dove va fa surf, le onde non si pagano, cioè, proprio è come un attentato. Vabbè, era la loro unica economia, che altro di che altro viveva. No, ma sulle isole io ho sempre trovato questo, gli isolani sono sempre stati molto, cioè, molto strani, anche qua vicino, in Sardegna poi lasciamo perdere. Perché? Che ti è successo in Sardegna? Siamo dovuti andare via, perché siamo andati lì, siamo entrati in acqua a far surf e ci hanno cacciato fuori. Via via, questa è casa nostra, questo è il momento nostro, non potevi far surf, uscire dall'acqua. Ma che mica stai vicino alla spiaggia col surf? Che... No, ma in acqua c'erano gli altri servizi che praticamente ti buttavano fuori all'acqua, poi uscivi fuori all'acqua. Ah, diciamo, c'era l'egemonia dei surfisti sardi, non potevi stare. La legge tribale, no? Oh, mamma mia. Sono gli locals. Quello che tu hai visto su Point Break e tutto quanto, quelle sono leggi vere, non è che è un film, è proprio così. Cioè vai in alcuni posti e tu torni e la macchina la trovi smontata. Infatti è meglio che vai solo con la tavola, entri in acqua. Ma non sapevo c'era questa battaglia fra surfisti. Per avere, diciamo, l'egemonia di quel pezzo di mare, cioè qua ci vado io. Il posto. Le onde sono le mie, ecco, così praticamente. Le onde sono mie e gente come te qua non può venire. Se sei amico di qualcuno, magari ti fanno entrare, però devi sempre stare attento, perché le onde migliori le prendono sempre loro. Quindi tu prendi le scartine che te lasciano. So searching, I followed sounds to a cathedral. Imagine my surprise to find that they were produced by Brian Eno. The roses trim and the windows dark. I see the walls through a limestone crack. Not red, not blue, not yellow, but black. And all the space is left for you. If the sky was synthesized, you probably know. He taught me many things, the wisdom of oblique stratagems. The prophet of a sapphire soul presented through creative freedoms. And everything I say is true. Cause if I was telling lies, it'd probably show. I can tell that he's kind of smiling, but what does he know? What does he know? We're always one step behind him. He's Brian Eno. Brian Eno. Brian Eno. Brian Eno. When I was stuck, he'd make me memorize elaborate curses. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ciao, siamo le radio italiane. tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Come si sceglie un'onda? Scusa, quando la vedi da lontano dici, questa è la mia. Le onde vengono a serie, le solito sono serie da 3 e da 5, e quindi sai benissimo che la migliore non è mai la prima, perché se cadi sulla prima arrivano tutte quelle dietro e te mangiano, quindi cerchi sempre di prendere la terza, la quarta o la quinta del serie. E perché sono sempre dispari le onde? Non sono mai chiesto. So così, non chiedo a me. O 3 o 5? O 3 o 5 o magari una. O magari sono tutte continue, però se vai su posti praticamente dove c'è sta il riff, sono sempre così, le più grandi sono quelle da 3. Arrivando a quelle da 3, se vedi anche i video dei Maverick, questi posti, quando arrivano quei mostri, onda anomala devi scappare. Poi a me sono sempre piaciute le onde grandi, quindi io non c'ho. Ma l'onda più alta che hai affrontato, quanto sarà stata alta? Te la ricordi? Quella proprio più difficile? Ma la ricordo proprio. Sono sceso giù con la tavola da windsurf, faceva un albero e mezzo, un albero da windsurf, sono 4,50 m sui 9 metri d'onda. E dov'era questo? Questo era in Australia. Quindi un salto di 9 metri praticamente? Sì, sì. Beh, una bella impressione, una bella sensazione. È bellissima, una sensazione, vivi l'adrenalina. Ma l'adrenalina è brutta bestia però, perché poi cerchi sempre di andare più avanti e poi un giorno cadi e resti sotto. A me è successo, qua la tavola surf, ho preso un'onda che non doveva venire, mi sono trovato lì, mi ha portato via la tavola e io sono rimasto là con un battere in mezzo all'acqua. Cioè l'acqua bianca senza onda mi portava sotto, io arrivavo sotto e mi davo lo slancio sulla roccia per andare sopra, perché sotto erano tutte caverne e quindi faceva tutto un turbinio praticamente come se fosse una lavatrice. Vabbè, un inferno proprio, è un incubo praticamente. Sì. Ma tu in quel momento hai pensato, sì, stavolta non ce la faccio, ci resto secco, ci hai pensato? Sì, ci ho pensato, però ho nuotato più forte che potevo e sono uscito. Vabbè, è il tuo elemento l'acqua. Certo, poi la cosa più bella è che faccio la pesca subacquea in apnea, quindi quello dove? Quello è in giro, fatta in Italia, in giro per tutto il mondo. Uscendevo tranquillamente a 25-30 metri senza problemi, poi pescavo, quindi c'era tutto un allenamento, era tutto un allenamento dietro. E con che? Con la fiocina a mano o col fucile? Col fucile subacqueo. Però da senza bombole. No, apnea, senza bombole. L'amico che mi ha insegnato, lui scendeva a 30-40 metri senza problemi, pescava, andava su, parlavamo dei 5. 40 metri in apnea per pescare, ammazza, mi sembra una cosa. Vabbè, più vai sotto e più c'è pesce. Poi, ma sono tanti. Poi in Australia con tutti gli squali, lo so. Hai nuotato anche in mezzo agli squali? Sì, più di una volta. Delfini, squali, tutto. Ma i delfini è vero si possono toccare? I delfini non li trovi vicino, si fanno toccare se vogliono essere toccati, però devi sempre stare attento, perché se un delfino esce fuori, salta, ti casca addosso, ti ammazza. Eh sì, è bello grosso. 100 kg. Andiamo in un altro paese lontano che sei stato, diciamo. Oltre le Samoa, Nuova Zelanda. Lì che sei andato a fare, sempre surf? Sì, sempre surf. Venivamo dalle Samoa, ci siamo fermati in Nuova Zelanda. Però non mi è piaciuta, è un posto molto lugubre. Mi è piaciuto per discorso realistico, perché è proprio la capitale del rugby. Però ho capito anche il perché, cioè quelli pensano solo a quello. Cioè tutto un discorso di andare addosso alla persona e calcolando che Cook se lo sono mangiato quando è arrivato là. Quindi è una cosa proprio genetica del della gente, sì, del posto. Sì, sì. Gli dà gusto fare la mucchiata e menarsi, questo? Sì, no, io sono andato dentro, perché noi quando andavamo in giro andavamo sempre dentro le case della gente comune. Siamo stati ospiti a casa dei samoani, che c'erano i tatuaggi in viso, che praticamente quando c'hanno un tatuaggio in viso deve essere uguale sia al lato destro che sinistro, perché la benevolenza verso il padre e la madre. E ci hanno spiegato determinate cose che facevano, nel senso che, come dice, l'accoglienza era sempre la base di tutto, però prendevano sempre rispetto per l'isola che era la loro. Di cosa si offendevano? Ma guarda, cose futili, per esempio non accettavi qualcosa che ti offrivano, qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, sai, c'hanno stesse tradizioni, che è tutto in famiglia, tutti insieme, tutti uniti, quindi devi fare rispetto di tutto, come ha insegnato mia madre, sempre mangiare tutto, fare il sorriso, ma magari non ti piace. Sai che ti fa schifo. Ti fa schifo, chiudi il naso e butti giù. Cioè, non è quello il problema. Io ho visto mangiare l'interiore del pesce a Samoa e mi ha detto che quella era la parte migliore del pesce. Cioè, io sono rimasto così, mentre pulivo il pesce nell'acqua loro, sembrava acqua minerale, questo ha messo le mani nell'acqua, ha preso proprio le budella del pesce, se l'ha infilata in bocca e l'ha mangiata sorridendo. Crude così. Tutti la roba più buona del pesce. A me mi si è girato il sangue, ho detto porca miseria, che questo fa così, come cavolo cucina. Difatti cucinavano i pesci tutti sani, come fanno anche gli aborigeni. Ah, li avvolgono con le foglie e poi li mettono a cucinare tutti i sani. Sì, no, fanno il forno figiano, che praticamente si mettono tutti i legni messi praticamente in pila, con sopra tutte rocce vulcaniche, si accende sotto, sopra si mettono sopra ste rocce, dopo un po' che cade tutta la pila, si aprono, che sono calde, si mette tutto il pesce, quello che devi mettere, copri tutto con foglie, poi si mette anche la pianta del pane e si lascia là a cucinare. Ma con le budelle tutto? Tutto sano, ma pure i maiali la stessa cosa. Ma come? Con l'intestino dentro, con tutto dentro? A me mi diedero i polmoni con la trachea, all'amico mio gli diedero il cuore perché era la parte migliore del maiale. Cioè io non sapevo come fare. Cioè lo mettono tutto intero dentro il forno, senza svuotarlo? Se dentro al suo forno, e costruiscono loro, certo. Ma è un altro sapore, però, cioè a noi fa schifo mangiare la carne così. Beh, bisogna essere un po' psicologi. Io gli dico, guardate, io non posso togliervi la cosa più buona, io mi accontento anche della coscia, prego mangiatelo voi. E quindi riuscivo a far baratto, a cambiare. Sì, tocca mangiare le budelle al maiale cotte a forno, che è una cosa, secondo me, mamma mia. Vabbè, tanto qua si mangiano, quando ero piccolo mi ricordo, la coratella, la vagliata. Sì, ma si puliva, era un altro discorso quello. Lì non è metterlo intero con tutto lo stomaco, tutto dentro il forno. Beh, ma le frattaglie è tutto, eh. Le frattaglie te mangi tutto. Senti, ma è una leggenda Samoa, le ragazze con le corone di fiori, tutte queste cose si vedono nei film, non esiste più? No, sono ospitalissimi. Però devi mantenere il rispetto, immagino, non è che ne, rispetto, diciamo... Sì, allora all'interno del villaggio c'è una cosa, secondo il tatuaggio c'hai il tuo posto all'interno del consiglio di giudizio. Le ragazze che hanno dei tatuaggi sulle gambe che sembrano calze vengono coperti con i lava che sono dei parei, e vengono soltanto mostrati nel momento in cui c'è stato il consiglio. I ragazzi invece hanno tutti i tatuaggi dietro, e a seconda il grado che hanno all'interno del villaggio hanno i loro tatuaggi. C'è il tatuaggio reale, c'è il tatuaggio, diciamo, quello sotto al re. Quindi, cioè, quello che sei te lo devi tatuare addosso. Sì, te lo devi tatuare addosso. E poi stiamo parlando di gente che se parte da 100 kg in su, quello più piccolino fa 100 kg, cioè sono delle cose enormi. Poi ogni quinto maschio del gruppo viene tirato su come un fafafini, che praticamente sarebbe come una donna, lo tirano su, perché dicono che in pratica rafforza la famiglia. E che deve fare questo poraccio? La femmina, diventa una femmina. Cioè, costretto a essere femmina? Sì. Cioè, se nasci quinto figlio, devi essere donna. Quinto figlio, sesto figlio, viene proprio educato come una femmina. Ma loro sono contenti, accettano senza problemi. E quindi fa la femmina da tutti i punti di vista? Sì. Beh, sai, perché l'omosessualità è molto forte nell'isola. Vabbè, mi sembra che da questo punto di vista per loro non c'è nessuna discriminazione. Ma sai, perché può essere che funzionalmente in famiglia serve una femmina, così sono sicuri che una femmina c'è, che aiuta la madre, non lo so. La femmina ce l'hanno, solo che poi c'è quest'altra veramente che rafforza, proprio, per loro chiude tutto. Poi hanno queste messe cantate, perché la domenica non si va al mare, si fa niente, tutto il giorno dentro la chiesa e cantano tutto il giorno. Cioè, su chiese con la croce, io supponevo che erano cristiane, ma erano mormone, cristiane, era tutto un misto. Cioè, tu vedevi queste baracche tutte distrutte, queste chiese bellissime, tutte strutturate, perché praticamente i preti li mettevano sotto a lavorare, a fare queste cose. Cioè, a me poi era una cosa che io odiavo. Ma guarda, questi ragazzini giocano in mezzo al prato, c'è il campo da basket dietro alla chiesa, non si può usare perché sennò si rovina, perché è tutto recintato, e si usa soltanto il sabato e la domenica quando vengono i preti da fuori e ci parcheggiano i loro sub, mettono là così. Vabbè, lo sai, è una forma di colonizzazione, che devo fare, lo so, certo. Sì, ma è una forma, no, questa è una forma, come si dice, credo incondizionato, credi e punto e basta. E loro avevano cambiato anche i loro costumi, perché come giustifica il fatto che va in chiesa e poi costringe un figlio a diventare femmina perché quella è la tradizione? Come facevano queste due cose a stare assieme? Ma quello non l'ho mai capito, sinceramente, quello non l'ho mai capito, però è così. Cioè, al prete gli stava bene lo stesso, questi portavano il ragazzo che doveva diventare donna, era la stessa cosa. Sì. Vabbè, sai, ci deve essere forse un rispetto di base delle tradizioni, perché sennò una religione non si può innestare, se non c'è un po' di sincretismo. Però la religione, come si dice sempre, specialmente il cristianesimo che è intelligente, a volte fa fare delle cose che stanno fuori, come in Sicilia, che c'è sta quel paese dove ci stanno i preti che hanno moglie, i figli e tutto il resto, cioè roba cristiana nostra. Mi sono speciale un po' di tempo fa, sono rimasto libido come il padre che c'ha il figlio e tutto quanto, cioè incredibile. E il Vaticano praticamente se ne frega, basta che c'ha la sua postazione là, il suo, vabbè, ma il suo adesso non saranno cattolici romani, capito? Saranno di rito romano, saranno cattolici di qualche altro rito, magari ortodossi, adesso non so bene come funziona. No, non sono ortodossi, guarda, tu guarda bene, perché hanno fatto uno speciale proprio sulla Rai. E questo qui, la chiesa praticamente da vantaggi d'assenso, senza... Vabbè, tu hai girato il mondo, che ti scandalizzi queste cose, quante ne hai viste nel mondo? Io non ne scandalizzo di niente. I'm pretending to be a good fisherman's woman, just like Anna Inkin's mom, the gladiator of all fishermen's wives. It makes it a lot easier thinking of you on the say, where you have to be a month at a time, working hard in the day, your hands cracking from the cold and the sword. In the night when you go to bed, you try to sleep by listening to the boat breathing, the boat breathing. And the only thing you can think of is me waiting for you by the window with the brightest red lipstick on my lips, just like Anna waits for her man. How will I learn? Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Io mi ricorderò sempre quando è morta mia madre, Io sono andato a prendere, stava morendo, sono andato a prendere il pre nell'androne dell'ospedale e gli chiesi, cioè, sta morendo tua madre, che c'ha avuto un incidente al mare, che stava patendo da 20 giorni le pene dell'inferno, è rimasta così paralizzata, stava andando, e io gli andai a dire al prete se per cortesia gli viene a dare l'ultima benedizione, l'estrema unzione. Quello anche a tutti, si incavano, inizia a strillare, vi ricordate che siete cristiani solo nel momento del bisogno, si chiama estrema unzione, ignorante, c'è un prete che mi dice così. Io ho fatto Gesù, gli ha dato poi l'estrema unzione, mia mamma è morta la sera. Ma perché non ti veniva la parola, se è incazzato il prete? Si è incazzato, il giorno dopo poi è venuto nella camera ardente, mi ha fatto allora, l'ho portato poi, gli ho detto innanzitutto venga fuori. Ho detto allora. Lo vuole menare? Non è, no. Io, bisogna sempre parlare con la gente, lei non è persona gradita e si ricordi che è un servo del Signore e porta il suo verbo, se vuole dire le sue opinioni va al Parlamento, fa come gli pare, adesso se ne può anche andare da dove è venuto e mi lasci col mio dolore, punto e basta. Quindi hai cacciato il prete? Perché sì, l'ho cacciato proprio, poi sono venuto a Fregene quando c'era un altro prete del nord che fece una funzione funebre per mia madre e mi fece praticamente scordare quello che era successo. Vabbè, mica sono tutti uguali, per fortuna. Sì, difatti ho detto, ma perché sono uomini? Ma certo. È quello il punto. È cioè, quello, se era fatto un po' girare, voleva fare quello che dava lezioni, non aveva capito il momento. Ma le lezioni non le puoi dare. Io mi ricorderò sempre, stavo facendo la cresima e il prete mi disse chi è il papà e la mamma di Gesù. E io, bambino di 8-9 anni, che poi gli dicevo Giuseppe e Maria, che hai? Giuseppe era solo il custode di Gesù. Io ho detto scusa, ma se era il marito di Maria e il comandamento dice non desiderare la donna ad altri, allora chi era questo figlio? Cioè, bambino, mi pure pensa a questo, certo, poraccio. Tutto. E quello se ne è fatto tutto sto casino. Cioè, allora mi ha fatto già capire che c'è sempre una legge aggiustabile per chi è chi è, quindi da là inizia a capire che tutto funziona in un altro modo. Vabbè, sai, l'umanità si è interrogata per millenni su questo, che vuoi, mica lo possiamo risolvere così. Vabbè, ma anche la Bibbia per se stessa pare che sia sempre stata modificata, no? Se entriamo in questi meccanismi, no, in questi finiamo più, figurati. Sai, chi ha la fede, è un atto di fede, alla fine non si fa tante domande. Se ti fai domande, farsi domande è antitetico aver fede. La fede non chiede domande, fine, si chiama fede apposta. C'ho fede, ma vuol dire che non mi faccio domande. Lo so. Ma... Cioè, io la prima domanda che mi sono fatto quando in giro del mondo, quando guardavo il mare, guardavo la linea dell'orizzonte, che cosa c'è là dietro? C'era altro mare. C'è un altro mare, infatti ho finito il militare nell'89, partivo altri 5 miei amici, andammo tutti quanti alle Hawaii. Ah, quindi c'era già una vocazione andare nelle sì, isole. Sì. Mia mamma era austriaca e mia mamma ha sempre detto... E com'era finita Fregene, tua mamma austriaca? Era venuta all'epoca per fare la babysitter, mia madre venne giù per fare la ragazza alla pari per una famiglia ricca di Fregene. Di Roma, che avevano la villa a Fregene e conobbe mio padre che faceva il bagnino di salvataggio allo stabilimento dove andavano. Era il più figo di Fregene, immagino, quel tempo. Sì, papà, capirai. Papà faceva pugilato, faceva scinnautico, insegnava, a fare scinnautico. E tu pensa negli anni 60 che voleva dire poi questo. Poi venne giù degli americani che stavano in affitto a casa di mia nonna, che facevano le gare offshore e gli insegnarono a mio padre a fare i salti con gli sci, praticamente il salto mortale, che c'erano gli sci particolari fatti a banana. Che ancora non lo faceva nessuno? No, non lo faceva nessuno perché erano delle cose impensabili, no? Andavi dritto dietro. Quindi tuo padre faceva il salto mortale con gli sci? Sì, con gli sci, perché gli aveva insegnato questo. Papà, io sono alto 1,78 m, papà era 1,60 m, piccoletto, era uno dei migliori assistenti bagnanti dei Fregene, all'epoca si chiamavano marinai di salvataggio. Ma anche lui ha fatto salvataggi, figurati, sì. Mamma mia, bizzeffe, lui e tutti i fratelli, c'aveva altri due fratelli, uno grosso, sembrava cosa, Pat Spencer, per quanto era grosso. Un altro invece era un po' più alto di lui, ma era tutto nervo, ecco, diciamo Pat Spencer e Terence Hill potevano essere loro. Ma se vogliamo fare un conto assurdo, tutta la tua famiglia, tu, tuo padre, i tuoi zii, quanta gente avrete salvato la vita? 1.000, 1.500. Cioè 1.500 vite salvate dalla tua famiglia? Sì, quindi, tranquillamente, senza problemi. Beh, ma guarda che un bel, è una bella soddisfazione. Sì, io ho anche una sorella, e pure lei è assistente bagnanti. Quindi anche lei la metti nel numero? Sì, pure lei è sportiva, lei faceva all'epoca gare di snowboard. Baywatch proprio. Sì, ma quando uscì Baywatch a me mi veniva da dire. Che tua sorella era come Pamela Anderson? Beh, sì, più o meno. C'aveva pure le tette giganti, però. E beh, galleggiava meglio, credo. Io ho preso pure quando sono andato in Australia, ho fatto pure gli esami, ho preso pure la patente Lifeguard International Ocean, che è tutte delle prove particolari, non come in Italia, che qua vai, fai la visitina medica, fai il bollettino postale e rinnovi. Là tutti gli anni si fanno i 500 metri in vasca a tot tempo, o vai a mare, fai tutto. Qui tu c'hai una patente internazionale di salvataggio. Sì, perché io poi ho una figlia australiana, io mi ero sposato con un australiano. Ah, quindi hai lasciato traccia in tutti questi viaggi, non è che sei andato solo a far surf? No, vabbè. Quanti figli hai lasciato in giro per il mondo? Solo niente. In Australia, sì. Siamo così, no, ce l'ho con me. Ah, l'hai portata e la madre? Con me. E la madre è rimasta in Australia. E sei contento di sta figlia australiana? Ma sono felicissimo. E che fa lei a Fregene? E lei a Fregene va a scuola quest'anno. Ah, è una bambina, è piccola ancora. Sì, sì, 9 anni. E già c'ha la vocazione anche lei del salvataggio del mare? Fa sempre con la tavola. Vabbè, la stai facendo venire su bene. Sì. Beh, però tu hai girato il mondo, hai visto 50 universi diversi, hai fatto sport e tutto, tanto lì poi torni e il tuo stabilimento, il tuo lavoro, la tua vita ce l'hai a Fregene, quindi come vedi ha un senso star lì per te. Ma un periodo avevo anche pensato di andare via. E dove andavi? Ma io volevo andare in Australia. A rivedere la madre di tua figlia, no, quella ormai. No, prima, molto prima. Io sono andato in Australia negli anni 90 e là ho comprato una macchina, a Melbourne, ho comprato una macchina e siamo arrivati fino a Perth, siamo fatti 4.000. Ma dovresti emigrare, non è proprio facilissimo, però. Io sono residente permanente, tra le altre cose. Ma qui tu potresti andare tranquillamente in Australia, avendo scelto. Sì, non mi è ancora scaduto il visto, cazzi vari, però c'è una compagna, qui sono tutta una vita, io voglio molto bene, e quindi... Però sai, guarda che è un bel esempio per il paese, uno che potrebbe vivere in Australia, c'ha la possibilità di starci, se ne sta a Fregene, e investe la sua vita e il suo lavoro a Fregene. Gianluca, non è tutto oro ciò che luccica. Lo so. L'Australia è bella, ma è un popolo dei razzisti veri e propri. Va dai, Michelone, ti lascio le tue cose e il tuo lavoro. Buon viaggio. Gianluca, e grazie, a presto sentirci. Sì, auguri, certo, per la stagione. Ciao. Grazie. Grazie a te, ciao ciao ciao. sea of wisdom and serenity. Make it better. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.